Ormai è una questione quasi quotidiana questo scontro tra Israele e Iran in Siria. Ricordiamo che da una parte la presenza iraniana in Siria è molto forte, e sono le forze al-Quds, ci sono uomini volontari delle guardie rivoluzionarie che operano in territorio siriano ormai da anni, e poi c'è la longa mano siraniana sul movimento sciita libanese Hezbollah, che ha un ruolo importante in Siria. Quindi evidentemente da una parte c'è un ruolo sempre più importante giocato dall'Iran in Siria, e dall'altra c'è la volontà di Israele di ridimensionare, attaccare, colpire gli interessi iraniani nella regione. Questo episodio è particolarmente grave ed è particolarmente venuto alla luce degli occhi perché l'esercito israeliano ha ammesso di aver attaccato le forze Quds e quindi di aver attaccato gli interessi iraniani in Siria. Ci sarebbero 11 morti tra le forze pro-governative siriane in seguito a questo attacco. In realtà l'esercito siriano dice che i morti sono 4 e pochi 3-4 feriti. Evidentemente c'è stato un attacco molto grave perché ha colpito anche l'aeroporto internazionale di Damasco. L'esercito israeliano ha ammesso di aver avuto come obiettivi, in un tweet senza precedenti, di aver avuto come obiettivi l'intelligence, i siti dell'intelligence iraniana in Siria e i campi di training per i militari, soldati e volontari iraniani in Siria. Ricordiamo che questo attacco è avvenuto nella periferia di Damasco, e proprio la periferia di Damasco e la periferia di Aleppo, cioè le due più importanti città siriane, sono la sede di base, delle due basi militari iraniane in Siria, che sono cresciute molto negli ultimi anni e sono diventate quindi evidentemente un target importante per l'esercito israeliano. Già dobbiamo ricordare che ci sono stati episodi molto simili a questo. Il più grave è stato denunciato in una scena plateale da parte di Benjamin Netanyahu, del premier israeliano, che addirittura ha mostrato pezzi di un drone iraniano che secondo Netanyahu ha sorvolato lo spazio aereo israeliano e quindi per questo è stato abbattuto dall'esercito israeliano. Ricordiamo che in quel caso c'è stato un sorvolo di un F-16 israeliano e questo F-16 è stato abbattuto, questo risale questo episodio a febbraio del 2018, da parte della difesa siriana. Quindi è evidente che lo scontro aereo tra interessi militari israeliani e la presenza iraniana nel territorio siriano è una questione centrale e porta poi allo scontro più ad alto livello tra Netanyahu e Javad Zarif. Ricordiamo proprio nel caso dell'incontro di Monaco, quando Netanyahu mostrò il pezzo di drone iraniano che puntò il dito proprio contro Zarif dicendo: riconosci questo pezzo. Quindi evidentemente lo scontro è più ad alti livelli, e questo fa seguito all'escalation sempre più grave che c'è nei rapporti bilaterali tra Iran e Stati Uniti. Ricordiamo che ha concluso, sì, arrivando all'apice con la cancellazione dell'accordo sul nucleare da parte degli Stati Uniti, quindi una cancellazione unilaterale che è avvenuta alla fine dello scorso anno e che ha portato di nuovo le sanzioni internazionali nei confronti dell'Iran da parte degli Stati Uniti, ma non solo, perché anche i paesi terzi che sono impegnati in investimenti o in rapporti bilaterali con l'Iran subiscono effetti da parte delle nuove sanzioni imposte dagli Stati Uniti, tranne alcuni paesi che hanno avuto un periodo di embargo di 6 mesi. Quindi evidentemente ci troviamo di fronte alla escalation della posizione iraniana, che viene sempre più isolata nel contesto regionale, e Israele è l'avamposto per ridimensionare il ruolo iraniano nella regione. E con un'ultima battuta, la Russia in questa partita gioca o ha deciso di non giocare? Anche in questo caso la Russia ha sempre difeso l'esercito siriano, il governo siriano. Dalle ricostruzioni che abbiamo, che ci vengono dai media siriani, l'esercito russo ha confermato che ci sono stati 30 missili che sono stati abbattuti da parte della difesa aerea siriana, e ha anche confermato l'attacco che è stato portato all'aeroporto internazionale di Damasco. Evidentemente le forze russe sono completamente sovrapposte agli interessi regionali dell'esercito siriano e quindi del regime di Bashar al-Assad, e sono stati i primi difensori del regime di al-Assad, e questo ha avvicinato moltissimo anche i russi e iraniani, perché in realtà in Siria hanno degli interessi sovrapponibili. Quindi evidentemente fino a questo momento Russia e Iran trovano a difendere gli stessi interessi. Ricordiamo che tutto questo deve essere inserito inserito anche nel quadro del ritiro che è stato annunciato da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dal nord della Siria. Trump vorrebbe lasciare il nord della Siria, però d'altra parte sta bene, nel momento in cui tutte le forze americane dovessero lasciare il territorio del nord della Siria, la Turchia potrebbe entrare nella regione del Kurdistan siriano, e questo ha provocato negli ultimi giorni una grande fibrillazione, tanto che c'è stato questo attacco a Manbij, che è una delle città che è stata liberata dallo Stato Islamico da parte delle unità di protezione maschile e femminile, cioè dei combattenti curdi del nord della Siria. Quindi evidentemente si sta giocando un gioco molto più ampio in territorio siriano, che riguarda il controllo completo da parte del regime di Bashar al-Assad di tutto il territorio siriano, incluso il nord, dove molti carri armati e forze dell'esercito siriano sono state aperte le porte per poter entrare e sostituirsi nel caso in cui gli Stati Uniti decidessero un completo ritiro dal nord della Siria. E quindi evidentemente la Russia continua a giocare il suo gioco geopolitico, cioè a sostenere gli interessi di al-Assad nel paese.